La signora di Wildfell Hall di Anna Bronte. Caro Holford, l'ultima volta che ci siamo visti mi hai fornito un racconto molto dettagliato degli accadimenti più importanti della tua giovinezza prima che ci conoscessimo. Poi mi hai chiesto di contraccambiare confidandoti qualcosa anche io. In quel momento non ero dell'umore giusto per mettermi a raccontare storie e ho preferito declinare l'invito con vaghe giustificazioni che tu non hai assolutamente accettato. Hai subito cambiato argomento, infatti, ma alla maniera di chi, pur senza dire una parola, si sente ferito. La tua espressione si è incupita, fin tanto che siamo rimasti insieme, e da quanto so, quella cupezza dura ancora. Da allora le tue lettere mi sono parse caratterizzate da una certa freddezza e da un distacco quasi malinconico che di certo mi avrebbero colpito se avessi pensato di meritarli. Ma non provi vergogna, amico mio, alla tua età, con la familiarità e la confidenza che abbiamo costruito negli anni e con la lealtà che ti ho dimostrato non prendendomela mai per il tuo troppo riservo o per i tuoi silenzi. Certo, tu non sei particolarmente comunicativo per natura e quel giorno avrai pensato di avermi dato una prova di amicizia e fiducia, cosa che di sicuro avrai giurato a te stesso di non fare mai più, tale da indurmi a ricambiare senza il minimo indugio. E quindi? Non ho iniziato a scrivere per rimproverarti, né per giustificarmi o scusarmi di averti offeso in passato, ma per rimediare, se possibile, ai miei errori. Oggi è umido e piove. La mia famiglia è fuori casa e sono in biblioteca da solo che rileggo vecchie lettere scartoffie ammuffite e ripenso al passato. La disposizione d'animo giusta, quindi, per raccontarti una storia. Ho allontanato i miei piedi bruciacchiati dal caminetto per avvicinarmi alla scrivania e iniziare a delineare un quadro per il mio vecchio e bisbetico amico, o meglio, una descrizione precisa e dettagliata della storia più importante della mia vita. Perlomeno di quella parte della mia vita precedente all'incontro con te, Jack Holford. Quando avrai finito di leggerla, dammi pure dell'ingrato e dello scorbutico, se vuoi. So che preferisci le storie lunghe e che, come mia nonna, adori i particolari minuziosi. Non mi risparmierò, dandomi come soli limiti quello della pazienza e del tempo che ho a disposizione. Tra le varie lettere scartoffie di qui sopra ho trovato anche un mio vecchio diario e lo dico soprattutto perché tu sappia che non mi affido solo alla memoria, che pure non mi manca, in modo che nel seguire i dettagli di questo mio racconto la tua fiducia non sia messa troppo a dura prova. Ebbene, iniziamo il primo capitolo allora, dato che questa storia ne prevede molti. Capitolo primo. Dovrai tornare con me fino all'autunno del 1827. Come sai, mio padre era un gentiluomo di campagna e io, assecondando il suo desiderio, gli sono succeduto in quella calma attività, pur senza entusiasmo. Avevo altre aspirazioni ed ero convinto che, ignorando la voce della presunzione, stessi sotterrando il mio talento e nascondendo la mia lampada dentro uno staio. Mia madre si era data molto da fare per persuadermi che fossi capace di grandi cose, ma per mio padre l'ambizione era la strada più breve per la rovina. Il cambiamento, sinonimo di sfacelo, e apportare qualche miglioramento alla mia vita o a quella degli altri mortali, non era di suo interesse. Considerava tutto una sciocchezza e fino all'ultimo respiro mi incoraggiò a seguire la sua strada, la stessa che era stata un tempo di suo padre, a tirar dritto senza mai guardare a destra né a sinistra per poter un giorno lasciare ai miei figli quei terreni nelle stesse condizioni floride di quelle in cui li avevo ricevuti. Ebbene, uno dei membri più utili alla società è proprio un agricoltore onesto e industrioso. Se impiego le mie capacità per migliorare l'agricoltura e coltivare i miei campi, renderò un servizio alla mia famiglia, certo, ma anche a tutta l'umanità. Non sarò vissuto invano, quindi. Così mi confortavo ritornando a casa stanco dalla campagna una fredda sera di ottobre. Il fuoco rosso, acceso, che si vedeva dalla finestra del salotto, seppe consolarmi e farmi pentire per le mie lamentele molto di più e più in fretta di tutte le riflessioni con cui avevo cercato di convincermi poco prima. Ero ancora giovane, Avevo appena 24 anni e non possedevo ancora nemmeno la metà del controllo sullo spirito che, per quanto ancora irrilevante, esercito oggi. Comunque, prima di entrare in quell'oasi di pace, dovevo togliermi gli stivali infangati e calzare un paio di scarpe pulite e sostituire il giaccone pesante con qualcosa di più rispettabile. Mia madre era tanto buona quanto inflessibile su certe cose. Salendo in camera incontrai per le scale una esuberante e graziosa fanciulla di 19 anni, fresca, ben proporzionata, con una cascata di lucidi ricci e occhi accesi. Avrai capito che era mia sorella Rose. Di sicuro è ancora oggi una bella donna, ai tuoi occhi attraente come la prima volta in cui l'hai vista. Allora non potevo sapere che di lì a qualche anno avrebbe sposato qualcuno che ancora non conoscevo e che sarebbe poi diventato un amico persino più intimo di quanto non fosse lei per me. Più intimo anche di quel tremendo ragazzino di 17 anni che in corridoio mi saltò al collo facendomi quasi cadere e beccandosi per contro uno scappellotto sulla testa senza tuttavia riportare alcun danno serio. Era una testa dura la sua e protetta da una fitta chioma di riccioli rossi che mia madre definiva ramati. In salotto trovammo quell'elegante signora che lavorava a maglia accanto al camino, come faceva spesso quando non c'era altro di cui occuparsi. Aveva già pulito il focolare e acceso un bel fuoco per accoglierci, mentre la cameriera aveva appena portato il vassoio per il tè e Rose stava prendendo lo zucchero e il barattolo del tè dalla dispensa di rovere scuro, che splendeva come ebano nella luce calda e accogliente di quella stanza. «Ebbene, eccoli qui tutti e due!» disse mia madre, alzando lo sguardo senza smettere di sferruzzare con i ferri luccicanti. «Chiudete bene la porta e avvicinatevi al fuoco mentre Rose prepara il tè. Avrete fame? Raccontatemi cosa avete fatto oggi. Sapete quanto mi piace sapere cosa combinano i miei figli tutto il giorno. Io ho domato il puledro grigio e non è stato facile. Poi ho seguito la ratura dell'ultima stoppia perché il ragazzo non ha il senso dell'orientamento. E ho progettato un sistema per drenare i pascoli più in basso. Che bravo il mio ragazzo! E tu? Che cosa hai fatto, Fergus? Ho dato la caccia al tasso. Poi iniziò a descrivere nel dettaglio quell'attività, raccontando di quanto fossero abili i tassi e i cani, mentre mia madre lo ascoltava con un'attenzione e una partecipazione che, stando alle smorfie sul suo volto, erano decisamente sproporzionate al caso. «Sarebbe ora che iniziassi a fare anche altro, Fergus», intervenni appena mi fu possibile intromettermi nel suo racconto. «E che altro posso fare?» disse. «Mamma non vuole che vada in mare o che faccia il militare, quindi ho deciso che voglio solo essere per tutti voi un tale impiccio che alla fine non vedrete l'ora di mandarmi via». Nostra madre lo accarezzò dolcemente sui ricci, lui si ritrasse brontolando e mettendo su il broncio. Rose ci aveva già chiamato 3 volte, quando infine ci alzammo per andare a tavola. «Adesso mangiate», disse mia sorella, «mentre vi racconto invece cosa ho fatto io. Sono andata a trovare i Wilson. Che peccato, che gran peccato, Gilbert, che non ci fossi anche tu, perché c'era Eliza Millward». «E quindi?» «Niente, dico solo che è simpatica e allegra quando è dell'umore giusto e non mi dispiacerebbe se...» «Zitta, cara, tuo fratello non ha di questi pensieri», l'ammonì seria mia madre. «Comunque oggi dai Wilson ho sentito di una cosa interessante che non vedevo l'ora di raccontarvi. Ricorderete che qualche tempo fa si diceva che qualcuno sarebbe venuto a vivere a Wildfell Hall? È successo davvero, qualcuno ci si è trasferito da oltre una settimana e noi non lo sapevamo!» «Non è possibile!» esclamò mia madre. «Assurdo!» commentò Fergus. «Eppure è vero, è una signora, da sola!» «Santo cielo, ma quella casa cade a pezzi!» «Oh, vive in 2 o 3 stanze che ha reso abitabili con un'anziana governante. Per la miseria, quindi non è una strega come avevo sperato», disse Fergus, servendosi una bella fetta di pane e burro. «Non dire sciocchezze, Fergus. Però, mamma, non è insolito?» «Insolito? Io quasi non riesco a crederci. Però devi, perché Jane Wilson l'ha vista. È andata a farle visita insieme a sua madre, che, saputo dell'arrivo di una forestiera, non si teneva più dalla voglia di conoscerla e apprendere quante più notizie possibile su di lei. La signora si chiama Graham. È in lutto, ma si tratta di un lutto leggero. È ancora giovane, pare, non più di 25-26 anni ed è molto riservata. La signora Wilson, con le sue domande dirette e importune, e la signorina Wilson, tanto abile a destreggiarsi con le parole, non sono riuscite a scoprire chi sia, né da dove venga, né altro che la riguardi. Neppure una parola buttata lì per caso, un'espressione fugace che potesse soddisfare la loro curiosità circa la sua storia e i suoi legami. Niente di niente. A quanto pare, la signora Graham è stata solo appena educata nei loro confronti, più contenta di licenziarle che di averle fatte accomodare. Eliza Millward dice che suo padre comunque ha intenzione di passare a trovarla per offrirle qualche consiglio pastorale, dato che, sebbene si sappia che è arrivata già da una settimana, domenica in chiesa non si è fatta vedere. Ed Eliza spera di poterlo accompagnare ed è sicura di riuscire a tirarle fuori qualche notizia in più. È capace di tutto, sai, Gilbert. Ad ogni modo, per correttezza, penso che dovremmo andare a farle visita, mamma. Certo, cara, deve sentirsi molto sola. Oh, vi prego, andateci al più presto e riferitemi quanto zucchero mette nel tè e quali cuffie e grembiulini indossa, perché non so se riuscirò a sopravvivere senza saperlo, commentò Fergus. Se aveva sperato che le sue parole fossero accolte con una grande spiritosaggine, rimase di certo deluso, poiché nessuno di noi rise. Tuttavia, provvide da solo, prese un boccone di pane e burro mentre stava per mandare giù un sorso di tè. L'ironia della sua stessa battuta lo raggiunse con tale forza che fu costretto ad alzarsi e di colpo e uscire di corsa dalla stanza rischiando di strozzarsi. Dopo un po' lo sentimmo in giardino che gridava in preda a una tremenda agonia. Per parte mia, ero affamato e mi accontentai di mangiare pane e prosciutto mentre mia madre e mia sorella continuavano a discutere circa le ovvie o meno ovvie circostanze, i possibili o improbabili risvolti della storia di quella signora misteriosa. Devo riconoscere, però, che portandomi la tazza alle labbra un paio di volte dovetti desistere e poggiarla di nuovo sul tavolo, per paura di scoppiare a ridere e trovarmi a fare la figura indecorosa che era toccata a mio fratello. Il giorno dopo, mia madre e mia sorella andarono di corsa a trovare l'affascinante reclusa, tornando con ben poche altre notizie. Mia madre non era comunque pentita della sua visita, non ne aveva ricavato nulla di positivo, ma era riuscita a darle qualche buon consiglio che sperava non rimanesse inascoltato. La signora Graham, per quanto riservata e testarda, non sembrava incapace di riflettere. Ciò nonostante, mia madre si chiese come avesse vissuto fino ad allora, dato che si era rivelata piuttosto ignorante in merito a certe cose, senza che ciò le procurasse il benché minimo imbarazzo. Ad esempio, su cosa, mamma? Chiesi io. Ma questioni di economia domestica, piccoli segreti della cucina che tutte le donne dovrebbero sapere, anche se poi non viene loro richiesto di metterli in pratica. Le ho passato molte buone ricette, sebbene credo non ne abbia compreso appieno il valore, perché mi ha detto che non era il caso che mi disturbassi tanto, poiché lei conduce una vita talmente tranquilla e modesta che non le sarebbero mai servite. Non ha importanza, mia cara, le ho detto. Sono cose che una signora rispettabile deve sapere. E il fatto che ora lei sia sola non significa che lo resterà a lungo. È già stata sposata e probabilmente, anzi sicuramente, lo sarà di nuovo. Si sbaglia, signora. Mi ha interrotto in tono brusco. Sono sicura che non mi sposerò mai più. Le ho risposto che ero certa di sapere il fatto mio. Una giovane vedova romantica, quindi. Commentai, venuta qui a piangere in solitudine il suo caro estinto fino alla fine dei suoi giorni. Ma non durerà a lungo. Infatti, lo credo anch'io, disse Rose. Non mi è sembrata tanto disperata, a dire il vero. E poi è così graziosa, anzi, è proprio bella, direi. Devi vederla, Gilbert. A te piacerebbe moltissimo, sebbene non potresti scorgervi somiglianze con Eliza Millward. Riesco a immaginare che vi siano visi più belli del suo, ma non più affascinanti. E riconosco che lei non sia il tipo di ragazza che ambisce alla perfezione, del resto sono anche certo che se fosse più perfetta sarebbe anche meno attraente. Quindi preferisci i suoi difetti alle perfezioni altrui? Proprio così, esclusa mia madre. Oh, Gilbert, caro, non diciamo sciocchezze. Non starai parlando sul serio? Disse mia madre, alzandosi e lasciando la stanza con la scusa di doversi occupare di qualcosa e risparmiarsi la contraddizione che ancora mi tremava sulla lingua. A quel punto Rose mi raccontò altri particolari sulla signora Graham. Mi descrisse l'aspetto che aveva, le sue maniere, l'abbigliamento e il modo in cui era arredata la stanza in cui viveva, con molti più dettagli di quanti mi interessasse effettivamente conoscere. Tuttavia, non avendo ascoltato con molta attenzione, non sarei in grado, neanche volendo, di riferirti nulla di tutto ciò. Passò il sabato e la domenica erano tutti lì a domandarsi se l'affascinante forestiera avrebbe seguito il consiglio del parroco e si sarebbe presentata in chiesa. Confesso che mi voltai anche io a guardare il banco della famiglia Wildfell, con cuscini e rivestimenti rossi e ormai sbiaditi e inutilizzati da anni, e quegli stemmi severi bordati di un nero scolorito che gettavano occhiate cupe e sinistre dalla parete accanto. Fu allora che vidi quella figura femminile vestita di nero, rivolta verso di me. Qualcosa in lei mi spinse a guardarla di nuovo. Aveva ricci lunghi, lucidi e neri lungo il viso, un'acconciatura fuori moda al tempo, per quanto gradevole. Una pelle chiara e luminosa. Non vidi gli occhi, però, nascosti dalle palpebre e da lunghe ciglia nere e rivolti verso il basso sul libro di preghiere. Le sopracciglia erano ben disegnate e molto espressive, la fronte ampia e intellettuale, un naso perfettamente aquilino e lineamenti delicati, a parte una lieve infossatura sulle guance e sotto gli occhi e le labbra un po' troppo sottili e strette, che tradivano un carattere non propriamente morbido. Meglio ammirarti da lontano, bella signora, che vivere al tuo fianco in casa tua, dissi tra me e me. In quel momento, per caso, sollevò lo sguardo e incontrò i miei occhi, che io decisi di non distogliere. Fu lei a tornare al suo libro con una fugace e vaga espressione di disprezzo che trovai a dir poco arrogante. Deve essersi fatta l'idea che io sia un ragazzino insolente, pensai. Non ci metterò molto a farle cambiare idea se dovessi decidere che ne vale la pena. Realizzai, in quel momento, quanto fossero sconvenienti simili pensieri in un luogo di culto e che il mio comportamento era lungi dall'essere quello più opportuno. Prima di tornare a concentrarmi sulla funzione, mi guardai attorno per capire se qualcuno mi avesse visto. Ma chi non stava seguendo il libro di preghiere era preso da quella signora misteriosa, e tra questi ultimi mia madre e mia sorella, la signora Wilson e sua figlia, e persino Eliza Millward, che stava sbirciando con la coda dell'occhio l'oggetto di tanto interesse. Poi intercettò il mio sguardo, mi rivolse un sorriso malizioso e tornò ad abbassare gli occhi sul libro di preghiere, cercando di assumere un'aria più composta. Stavo di nuovo contravvenendo alle regole, come mi fece notare mio fratello, con un'improvvisa gomitata sulle costole, alla quale lì per lì potei rispondere solo pestandogli il piede e rimandando la vera vendetta a quando fossimo usciti da lì. Prima di concludere questa lettera, Holford, ti racconterò qualcosa di Eliza Millward. Era la figlia del parroco, una ragazza molto attraente nei confronti della quale nutrivo un certo interesse. Lei ne era consapevole, sebbene non gliel'avessi mai dichiarato apertamente né avessi in programma di farlo, giacché mia madre, la quale non riteneva ci fossero ragazze degne di me nel raggio di chilometri, non sopportava il pensiero che potessi legarmi a una creatura tanto banale che, oltre a svariate altre mancanze, non aveva un soldo. Eliza era snella e al tempo stesso morbida. Aveva un viso minuto e tondo come quello di mia sorella e una carnagione simile alla sua, sebbene più delicata e meno rubizza, il naso all'insù e lineamenti leggermente irregolari. Complessivamente era più interessante che graziosa, ma i suoi occhi, come dimenticarli, erano la cosa più bella di lei, almeno da un punto di vista esteriore, lunghi e sottili e neri o di un marrone molto scuro, con un'espressione ogni volta diversa, ma sempre, in qualche modo, direi quasi diabolicamente, maliziosa e ammaliante, o entrambe le cose insieme. Aveva una voce dolce da bambina e le movenze delicate e leggere di un gatto, sebbene i suoi modi fossero più simili a quelli di un micetto, audace e dispettoso in un dato momento e timido e ritroso subito dopo, a seconda del capriccio. Sua sorella Mary era molto più grande di lei, oltre che molto più alta e di aspetto più robusto. Era una ragazza modesta, assennata, che aveva accudito con amore la madre durante la sua lunga malattia fino alla fine, e da allora si occupava a tempo pieno della famiglia. Il padre la teneva in grande considerazione, i cani, gatti, bambini e poveri la adoravano, mentre gli altri la ignoravano. Il reverendo Michael Millward era un uomo anziano, alto e robusto, portava un cappello a tese larghe e aveva un viso largo e lineamenti marcati. Girava sempre con un bastone da passeggio, indossando pantaloni alla zuava, calze pesanti e ghette o, nelle occasioni speciali, calze di seta nera. Era una persona irremovibile, pieno di pregiudizi e abitudinario. Non sopportava opinioni diverse dalle sue e considerava chiunque non si trovasse d'accordo con lui un ignorante o uno stolto. Quando ero più giovane nutrivo per lui un timore reverenziale, che però già allora avevo superato, poiché se da una parte era tanto gentile, quasi paterno, nei confronti di chi si comportava bene, si dimostrava invece inflessibile e aspro con chi sbagliava e ci aveva spesso rimproverati severamente per i nostri piccoli peccati di gioventù. Inoltre, tutte le volte che veniva in visita a casa nostra, dovevamo alzarci in piedi a recitare le preghiere o cantare come l'ape laboriosa o altri inni del genere, o ancora peggio, venivamo interrogati su quali fossero stati i punti più salienti del suo ultimo discorso, che non ci ricordavamo mai. Capitava anche che rimproverasse nostra madre di aver cresciuto i figli maschi con troppa indulgenza, ricordandole del vecchio Eli o di Davide a Salonne e facendola restare sempre molto male. Sebbene lei lo stimasse e tenesse sempre in grande considerazione i suoi sermoni, una volta la sentii dire: «Vorrei vedere lui con un figlio maschio. Si renderebbe ben conto di cosa significa crescere due ragazzi e non credo che continuerebbe a elargire consigli agli altri tanto facilmente». Il reverendo era particolarmente attento alla salute, si alzava presto, andava a passeggiare prima di colazione, voleva che i suoi vestiti fossero sempre caldi e ben asciutti, non iniziava mai un sermone senza aver prima mangiato un uovo crudo. Aveva una voce profonda, buoni polmoni e gusti particolari anche in fatto di cibo, sebbene fosse tutt'altro che astemio e la sua fosse una dieta molto speciale. Detestava il tè e simili bevande, mentre apprezzava i liquori al malto, le uova con la pancetta, il prosciutto, il manzo essiccato e la carne piccante, cosa che riusciva a digerire senza difficoltà e che consigliava a chiunque si trovasse in convalescenza. Se poi queste persone non ne ricavavano il beneficio previsto, le accusava di non aver perseverato abbastanza. Se invece si lamentavano di averne cavato solo dei disturbi, le rassicurava dicendo loro che erano sintomi solo momentanei, se non addirittura frutto della suggestione. Voglio aggiungere altre due parole su altre due delle persone che ho nominato prima di terminare questa lettera, la signora Wilson e sua figlia. La prima era vedova di un ricco agricoltore, una vecchia ficcanaso meschina e chiacchierona su cui non vale la pena stare a perdere troppo tempo. Aveva anche due figli maschi, Robert, un grezzo lavoratore dei campi, e Richard, un ragazzo riservato e grande studioso dei classici, che con l'aiuto del parroco si preparava all'università per avviarsi alla carriera ecclesiastica. Poi c'era la sorella Jane, una ragazza con qualche buona qualità e tantissima ambizione. Aveva studiato per sua scelta in collegio, ricevendo un'educazione superiore a chiunque altro nella sua famiglia. Conosceva le buone maniere e aveva quasi del tutto perso l'accento provinciale. Poteva vantarsi di aver ottenuto in fondo risultati migliori di quelli delle figlie e del reverendo stesso. Era considerata anche graziosa. Io però non fui mai, neppure per un attimo, tra i suoi corteggiatori. Aveva circa 26 anni, era alta, molto snella, con capelli di un rosso chiaro e acceso, né mogano né ramato, una pelle chiara e luminosa, la testa piccola, il collo esile, un bel mento rotondo e corto, labbra sottili e vermiglie, occhi marrone chiaro, rapidi e acuti, ma privi di bellezza e di emozione. Contava, o avrebbe contato, molti ammiratori tra i giovani della sua classe sociale, che però respingeva puntualmente. Soltanto un gentiluomo avrebbe infatti potuto soddisfare la sua ambizione. C'era in effetti un gentiluomo sul cui cuore, nome e patrimonio si diceva avesse messo gli occhi, ed era il signor Lawrence, un giovane nobile che aveva vissuto a Wildfell Hall fino a 15 anni prima con la famiglia e si era poi trasferito in una proprietà più comoda e moderna, non lontano da lì. A questo punto, caro Holford, ti saluto. Questa è la prima rata del mio debito con te. Fammi sapere se la cosa ti soddisfa, in modo che possa poi mandarti il resto con comodo. Se invece preferisci tenermi come creditore e non riempirti il borsello di monete tanto ingombranti, dimmelo. Saprò perdonare il tuo cattivo gusto e terrò per me il resto di questo prezioso tesoro. Tuo per sempre, Gilbert Markham.